later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la produzione non accenna a diminuire, K e Drago sperimentano nuove strategie anti-piccione. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Sì, però bisogna trovare una soluzione, perché coi piccioni non van bene le bastonate, non va bene il lanciafiamme. Eh no, lanciafiamme no. Cosa si può fare? Non so. Forse un buon incentivo a farli andare via sarebbe legalizzarli. No, come sarebbe a dire legalizzarli? Legalize it, come diceva Peter Tosh. Te lo ricordi, sì, Peter, sì, Tosh? Peter Tosh? Sì, lo sappiamo, poi sbattimento che sai chi è. Sì, lo sappiamo, roba anni 70. Però il povero Peter Tosh si riferiva alla ganja, non ai piccioni, Drago. Vabbè, non puoi legalizzare... Ascolta un po', legalizzare i piccioni è come far entrare, che ne so, l'Albania nella comunità europea. Gli si dice, se volete star qui, le regole sono queste. Il PIL deve essere così e cos'ha. Il debito pubblico così e cos'ha. Tutto deve essere in regola, eccetera, eccetera. Sì, quindi vabbè, loro, l'Albania migliora per entrare in Europa, ma il capito? PIL, ma il paragone non regge. Ma perché? Ma perché quali sono i parametri di Maastricht dei piccioni? Non so, tipo mettere un limite massimo ai rifiuti organici che i piccioni possono produrre. Nel caso specifico la cacca, il guano, ecco, devono contenersi, insomma. E poi? Vogliono star qui. E poi devono avere un PIL, cioè devono produrre. Ma senti, ma il polo sbattimento oggi deve sempre come star PIL? Qua. Il PIL? Il PIL, prodotto interno lordo. No, il PIL John Lydon, no? Ma che il PIL di John Lydon? Ma levati. Vabbè, no, capa, dicevo che questi piccioni loro devono produrre e non devono produrre guano, cioè devono produrre qualcosa oltre al guano e quindi devono avere un'occupazione. Sì, ma Drago, sembra una proposta di Pannella, giusta, però inapplicabile perché qui intanto non funziona. Non funziona. Non funziona così. I piccioni non accetteranno mai la legalizzazione. Che cosa sarebbe questa legalizzazione? Noi non vogliamo farci legare in nessun modo. Nessuno vuol legare una legione intera. Noi non ci ribelliamo. Noi semplicemente vi ignoriamo. E se riuscite a ignorare la nostra indifferenza, siete in gamba. Ma sarà difficile. Un corpo morto pesa molto di più di un corpo vivo. E noi siamo un corpo assolutamente morto, pur essendo vivo. Siamo come un corpo che dorme un sonno molto pesante. E spostateci se ci riuscite, ma solo se ci riuscite. Se no, ci spannatevi la fatica. I piccioni. I piccioni fanno come Gandhi. La non violenza, resistenza passiva. Mangiano a sbafo ed evacuano con gioiosa regolarità. Era così la non violenza gandhiana? Sì, sì. Mangiare a sbafo e fare tanta cacca? Applicata ai piccioni, sì. Applicata agli indiani, no. Ah, vabbè. No, mangiare... Evidentemente gli indiani che si affrancavano dai colonialisti inglesi avevano altre strategie. Tipo? Ma che ne so, tipo i mantra. Cos'ha? Ravi Shankar. Oppure... British go home, we don't eat cows. British go home, starving children. British go home, plague from the Ganges. British go home, elephant and tigers. British go home. Abbassi i piccioni. Puzza! Puzza piccioni! Puzza dei piccioni! Caro a pelle, come ti sei permesso di fare una palla con la nostra pelle, sulla nostra pelle. Adesso, e cari pesci, perché venite a galla per vedere questa bella palla fatta da pelle, figlio di Apollo. Io lo so che un pollo mai siederà tra gli dei dell'Olimpo e mai farà una palla di pelle con la pelle di Apelle, perché un pollo per sempre pollo resterà. La fabbrica di polli. Che ora è? Oh! Che ora è? Ah! Che ora è? Ah! Che ora è? Boh, sarà l'una, Drago, l'una del pomeriggio. Ma che una del pomeriggio? È mezzanotte, dai. Ma no, è l'una, l'una e mezza del pomeriggio. Mezzanotte. Ti dico di no. Allora il tempo ha ripreso a funzionare. Ma no, è solo una questione di repliche. E non sei contento? Di cosa? Delle repliche. Sì, abbastanza. Punto. Ma poi cosa cambia, scusa? No, niente, niente. Solo che la questione del tempo è interessante. Se ne è occupato Bergson. Ma già, sì, ma quale tempo? Cose... Drago, lascia stare. Guarda piuttosto i piccioni, come sono tranquilli mentre fanno i loro porci comodi senza che nessuno possa disturbarli. Vero. Guarda che faccia. Guarda che faccia. Guarda che comportamenti. Guarda che comportamenti. Guarda che posture da parassiti. I piccioni. Cari amici del sindacato dei piccioni in pensione, che devo dire? Tutto sta procedendo bene. Qui nessuno ci sta dando fastidio. E anche se ce ne daranno, la nostra forza e l'immobilità combatta. Ma vi raccomando, muovetevi poco, siate pesanti e indolenti. Siate indifferenti all'ambiente che vi circonda. C'è un cibo che va passare avanti al becco e che basta allungare la testa per scoccare, no? È facile. Per le prossime settimane l'obiettivo da raggiungere è fare eleggere un nostro rappresentante, e cioè io, nel consiglio d'amministrazione, per poter valorizzare al meglio il peso della nostra presenza. Quando una massa grande come la nostra si sposta, il mondo ci attiene un fiato. E che ci tenessero pure un fiato, che si soffocassero! Viva i piccioni! Viva la libertà! Viva il libero sindacato dei piccioni! Invenzione! Mi sento male! Un coccolone, ma mancai! Oddio, oddio! Ci tenere, forza, vito! Oddio, oddio! Un piccione, una piccione! Ma cosa? Dicevo, un bene! Che cosa succederà adesso? Quale effetto avrà il coccolone che ha appena colpito il presidente del sindacato sulla vertenza tra la fabbrica e i piccioni? La risposta a lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi carobolantici allestimenti de... La fabbrica di polli. Anche sul podcast di Radio Rai. La fabbrica di polli, un programma di Cappa e Drago, con Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Luca Gemma, Paolo Giangrasso, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La fabbrica di polli @rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Ah, che ora è? Ah! E piccione! Ah! E piccione! Ah! Piccione, che schifo!